Il diario di Q. Viterbo, 13 maggio 1545. Nell'affresco sono una delle figure di sfondo. Al centro campeggiano il Papa, l'imperatore, i cardinali e i principi d'Europa. Ai margini, gli agenti discreti e invisibili che fanno capolino dietro le tiare e le corone, ma che in realtà reggono l'intera geometria del quadro, lo riempiono e senza lasciarsi scorgere consentono a quelle teste di occuparne il centro. Con tale immagine nella mente mi risolvo a tenere questi appunti. In tutta la vita non ho mai vergato righe per me stesso. Non v'è pagina del passato che possa compromettere il presente. Non v'è traccia alcuna del mio passaggio. Non un nome, non una parola. Soltanto memorie a cui nessuno può credere, giacché sono quelle di un fantasma. Ma ora è diverso. Oggi forse è più difficile e rischioso che a Münster. Gli anni italiani insegnano che i palazzi sono micidiali quanto i campi di battaglia, solo che qui dentro i rumori della guerra sono attutiti, assorbiti dal parlottio delle trattative e delle menti acute e assassine di questi uomini. Niente è ciò che sembra dentro i palazzi romani. Nessuno può cogliere il quadro d'insieme, vedere contemporaneamente la figura e lo sfondo, l'obiettivo finale. Nessuno eccetto coloro che tengono i fili di quelle trame, uomini come il mio signore, come il Papa, come i decani del Sacro Collegio. Promemoria. Capire, annotare, non tralasciare dettagli in apparenza irrilevanti, che potrebbero risultare chiavi di volta di un'intera strategia. Gli elementi del quadro. Un libro pericoloso, un concilio imminente, un uomo potentissimo, il servitore più segreto. Sul beneficio di Cristo. Sono quasi 2 anni che il libro è stato stampato. Ha scatenato polemiche. Già il cardinale Cervini lo ha vietato nella sua diocesi. Ma ciò nonostante continua a circolare indisturbato e anzi conosce grande diffusione. I viterbesi fanno finta di niente e intanto si preparano a portare le tesi del libro al Concilio di Trento. Reginald Paul, ci sono tempi e luoghi giusti per le idee che scelti con cura possono impedire ai nuovi tribunali di fermarle. Paul spera di battere carafa sul tempo, la diffusione delle idee riformate contro la costruzione dell'Inquisizione. Il beneficio di Cristo può essere un'arma a doppio taglio che colpisca chi l'ha forgiata? E come? Fare in modo che il Concilio lo scomunichi subito e smascherarne gli autori? Attribuirlo a Paul e al suo circolo di amici? No, l'inglese negherebbe tutto. La sua credibilità è troppo alta per imputarlo di eresia. E poi non ci sono prove che sia stato lui a redigere il libro. Se riuscisse a scagionarsi, ne uscirebbe più forte che mai. Questo il mio signore lo sa, è uomo troppo prudente per concedere una tale opportunità al suo maggior avversario. Meglio, invece, ordire una tela dove uno dopo l'altro cadono tutti i cardinali che guardano con simpatia ai riformati. Un libro che passa di mano in mano, di biblioteca in biblioteca e contamina chiunque lo tocchi. E quando raccogli la rete, prendi tutti i pesci grossi in una volta. Occorre lasciarlo circolare, come se il Concilio lo scomunicasse, lasciare che gli amici di Paul lo leggano, ne restino affascinati, così come sono affascinati da quel bell'intelletto inglese. Intanto Carafa lavora. Costruisce passo passo la macchina che lo metterà nelle condizioni di incastrarli tutti in un colpo solo. Sì, è così che ragiona il mio signore. Ma un gioco del genere può sfuggire di mano, diventare troppo grande, anche per la sua mente ubiqua. Sul Concilio. 29 giugno 1542. Pubblicata la bolla papale di convocazione del Concilio Ecumenico. 21 luglio 1542. Bolla papale Licet ed Inibitio, che istituisce la Congregazione del Santo Uffizio dell'Inquisizione. Tra queste 2 date, ripresa della guerra tra Carlo V e Francesco I. A quanto pare, se non è concilio, è guerra. Di eserciti o di intelletti. Non fa troppa differenza. Deconcilio. Una difesa velata delle tesi del beneficio di Cristo. I cardinali spirituali vogliono trasformare il Concilio di Trento nella sede privilegiata per affrontare la questione della giustificazione. Il Concilio dovrebbe diventare la forza contrapposta all'Inquisizione, che va irrobustendosi sotto l'astuta guida di Carafa. Non vi sono dubbi che il mio signore si prodigherà affinché le tesi del beneficio vengano condannate ancor prima d'essere discusse. Su Carafa. C'è da chiedersi cosa mai troverebbe Vesalio, il necrofilo, dentro quest'uomo il cui sguardo sembra puntare verso un orizzonte troppo lontano, non di questa terra. Forse tutto il timore che egli incute, o la grazia divina della mente insondabile del Creatore, sotto le celate fattezze della crudeltà. Chi è mai costui? Padrone mio e monaco, maestro di simulazione e dissimulazione, da genia nata per comandare, vescovo prima e poi povero teatino per voto, nemico dell'imperatore che tenne infante sulle ginocchia, già disprezzandolo, di intuito che parrebbe diabolico, se non se ne conoscesse la fede, sommo architetto del Sant'Uffizio, rinato per lui e sotto di lui, che ne custodisce i segreti, le mira, e lo fa crescere come una prole amata, con smisurata energia, a un'età che gran parte degli uomini già da lungo tempo trascorre tra vermi e terra. Apostolo di ciò che oltre ogni cosa lo esalta, la guerra spirituale, lotta interiore ed esteriore senza quartiere alle sedizioni dell'eresia, sotto qualsiasi forma si presentino. Chi è mai costui? Su di me, l'occhio di Carafa.